po' alla volta la ripresa, anche più autorevole alle due squadre che l'avevano preceduta. E anche in questo caso, che poi alla fine è quel che conta, una situazione rimediabile al ritorno, a patto, a parer mio, di non farsi poi troppe illusioni, e questo secondo me vale per tutte e tre le italiane. Oggi ne parliamo niente meno che con Beppe Bergomi. Beppe, buongiorno. Buongiorno, ciao Gigi. Ciao, senti, arriviamoci dopo aver fatto una premessa su qualcosa di più serio. Io ho qui sotto gli occhi il comunicato di una iniziativa umanitaria che tu hai presentato stamane. Vorrei che ci spiegassi tu stesso di che cosa si tratta, perché, ripeto, con tutto rispetto per la tua attività di telecronista, io mi cavo sempre il cappello davanti a queste cose. Ma io faccio parte ormai da 26 anni di questo gruppo sportivo che si chiamano i Bindun, che in dialetto milanese vuol dire un po' i girovaghi della solidarietà. Certo. E proprio oggi una grande azienda, non so se posso fare il nome, Gigi, di Mito. Lo puoi, a fini di umanità si fa esatto, tutto. Esatto, l'Acer, nelle sue varie iniziative di solidarietà, insomma, ha inserito anche il nostro gruppo, ecco, che ci aiuterà tutto l'anno con le varie iniziative che durante la stagione loro raccoglieranno dei fondi e aiuteranno la mia associazione, quella di Pupi Zanetti e altre tre, insomma. E quindi questo è sicuramente, da parte dell'Acer, è stato un gesto nobile, visto che noi, insomma, rappresentiamo sul territorio del Comasco, diciamo, in confine, sì, con la Svizzera, queste nostre case famiglie con dei bambini, con delle problematiche, e che, insomma, ormai il nostro impegno è costante, fa parte di questo gruppo Beppe Baresi, Riccardo Ferri, ex calciatori che nell'82, insomma, avete cercarono fondato di fare qualcosa. Ecco. Certo, integrazione sociale di in condizioni di marginalità in un'area non facilissima per l'apertura, no? Sociale a questi temi, con rischi di emarginazione. Ripeto, mi cavo sempre il cappello e in questi casi non c'è pericolo di fare pubblicità, perché siamo nel campo dell'omnia munda mundis. Con questa premessa io potrei aggiungere, giusto per arrivare, no, un pochino a tappe, dico che in realtà tu già ci fai del bene, non di quello con la B maiuscola, con quello minuscolo, raddoppiando di tanto in tanto la marcatura su Caressa, ma non ti chiedo un commento a una battutaggia come questa, andiamo subito oltre. Una mail ricevuta stamattina tra le tantissime ricapitola i risultati, questo zero alla casella dei gol segnati in questa doppia giornata, e ripesca lo 0-0-0-2 dell'altro anno di Arsenal-Milan, il 2-0-1-0 di Liverpool-Inter e il 2-0-1-0 di Manchester United-Roma. Siamo a 10-0 al momento, che è sinceramente imbarazzante, fa notare questo signore Gianpietro Rodaro da Gemona del Friuli. Oltre ai numeri ci metterei, dicevo, quella soggezione iniziale quasi paralizzante di tutte e tre le squadre, forse in particolare dell'Inter. Perché secondo te? Ora, leggendo proprio i numeri, Gigi, l'anno scorso secondo me eravamo messi peggio, nel senso che qui forse qualche speranziella, come avevi sottolineato tu all'inizio della trasmissione, c'è ancora, senza farci troppe illusioni, però l'anno scorso non c'era, secondo me, dopo la partita di andata. Sì. E la soggezione, io ti dico, la partita della Juventus ieri ero impegnato a commentare un'altra partita, non l'ho vista. Le altre due, effettivamente, per quanto riguarda l'Inter, i primi 20 minuti sono stati abbastanza imbarazzanti, salvati da Giulio Cesar, che è veramente un portiere straordinario. E lì, secondo me, è un problema un po' di personalità e di angoscia di voler andare a raggiungere questo risultato, che ormai, sai, in Italia non ha concorrenti l'Inter, quindi vuole puntare forte sull'Europa e ti vai a scontrare contro un colosso come il Manchester. Però paradossalmente delle tre forse è quella che ha qualche chance in più adesso, perché fuori casa a quel punto sarà una partita durissima, però può come essere alleggerita dalle pressioni e cercare di giocare, insomma, un calcio un po' diverso. Poi ha due risultati su tre, a differenza delle altre. Esatto. No, quindi questo è un dato oggettivo. Ieri un antico allenatore che è stato anche con te, cioè Ottavio Bianchi, diceva che in queste sfide Italia-Inghilterra la cosa che balza agli occhi subito, proprio per queste paralisi iniziali, è probabilmente la pressione pressione che gli inglesi non sentono, perché sono abituati, come sappiamo, a vivere il calcio in un'altra maniera, e che sentono i nostri. Facevamo insieme l'esempio di Santon, per esempio, l'altra sera, che pur con qualche magari errore di copertura, ma insomma aveva l'aria sbarazzina di sempre, mentre gli altri sembravano paralizzati. Ieri mi ha fatto la stessa sensazione, anche se tu non l'hai visto, Marchionni quando è entrato, Marchisio quando è entrato, cioè come se i giovani sta pressione la sentissero meno. È vero Gigi, io nell'81 quando ho esordito in Champions, cioè sei, come ti posso dire, più libero mentalmente, non vivi le pressioni che magari, o le responsabilità anche, che magari hanno quelli un po' più anziani, ecco, diciamo così. Però effettivamente proprio le nostre squadre da questo punto di vista soffrono questa pressione, gli altri non l'hanno. Io ieri sera ho visto il Liverpool, è nato sul campo del Real Madrid, ha giocato con una tranquillità, insomma ormai sono 3 o 4 anni che arrivano o nei quarti, semifinali o finale, questa è una squadra strutturata per far bene, ma soprattutto le squadre inglesi la vivono da questo punto di vista come tattica prima di principio, prima della gara, in una maniera diversa dalle nostre. Tra l'altro Omar da Bologna per esempio mi sta scrivendo, mi sta facendo notare che in questa triplice sfida le inglesi hanno dominato i primi tempi e poi sono calati nella ripresa. Il Liverpool che hai visto tu direi di no invece. No, il Liverpool pensa che ha giocato tutto secondo tempo, cioè parte senza Gerrard che è entrato negli ultimi minuti, e Torres si è fatto male dopo 20 minuti, si è fatto male alla caviglia e non c'è quasi mai stato, ma loro sono sempre molto organizzati. Certo. Poi anche questa storia, Gigi, io non sono molto convinto del secondo tempo. È vero che l'Inter è un po' cresciuta, ma se andiamo a vedere le occasioni migliori le ha avute ancora il Manchester nel finale. Secondo tempo. Esatto, e stessa cosa la Roma, perché dimentichiamoci che nel secondo tempo Doni ha fatto un paio di parate, una su Diaby e un'altra, ricordo, su Kimpembe, davanti al portiere ha tirato fuori, quindi le occasioni migliori le hanno sempre avute le squadre avversarie. Ecco, la Juve, da quello che ho visto, da quello che mi hanno detto invece, forse è quella che è cresciuta maggiormente rispetto alle altre. Sì, tant'è vero che nel finale ha fatto davvero paura al Chelsea. Andrea da Pescara suggerisce una considerazione, è milanista lui, e dice: c'è poco da fare, alla fine l'unica squadra italiana ad avere una vera identità internazionale in questo periodo storico è il Milan. È difficile dargli torto, a parer mio. Sì, Milan vive ancora però su quella finale vinta e su quelle 3 partite fatte bene, Gigi, con Manchester, Bayern, Monaco e poi la finale con Liverpool. Sì. Però da lì in poi ha fatto molto fatica anche il Milan, vero, l'anno scorso e anche quest'anno, adesso staremo a vedere in Coppa UEFA. Però effettivamente è strutturato con dei giocatori che hanno grande esperienza e nella partita secca, visto le qualità tecniche che hanno i giocatori del Milan, possono vincere con chiunque, questo è vero. Avrei ancora una domanda che è questa. Che cosa è cambiato? Tu hai ricordato il tuo esordio europeo nell'81, ma possiamo venire ancora anche parecchio avanti negli anni per trovare rispetto a oggi una differenza sostanziale. Cioè, una volta punteggi come quello, per esempio, che ha fatto l'Inter, 0-0 in casa, sarebbe stato un punteggio molto negativo, un risultato molto negativo. La sconfitta per 1-0 di Roma e Juventus fuori casa sarebbe stato un risultato, non dico positivo, ma quasi. Perché adesso è così tutto cambiato, nel senso che uno 0-0 in casa può essere un risultato apprezzabile e una sconfitta per 1-0 fuori può essere invece un risultato difficile da rimediare? Questa è una bella domanda, ci ho pensato tante volte anch'io. Penso sia cambiata la mentalità, come le squadre italiane vanno a affrontare fuori casa le partite per quanto riguarda l'Inter, ma un po' in tutto il calcio mondiale, ecco. Quindi adesso in casa e fuori veramente c'è poca differenza, difficilmente lascia perdere il risultato del Bayern Monaco ieri, che è una cosa inusuale. Sì. Però sono sempre molto risicati i risultati, quindi basta poco per fare un risultato fuori casa, ecco, perché ormai insomma la mentalità del calcio è cambiata, non si pensa più solamente a difendere quando si fa fuori casa, ma si cerca sempre di proporre la partita. Infatti io ho una mia teoria, che sì, tanti non mi seguono, che è sempre meglio giocare la prima in casa, Gigi, rispetto fuori, perché la prima tu te la giochi, non ottieni un risultato positivo, vai fuori casa e te la rigiochi. Tante volte andare fuori casa la prima, rimani lì sulle tue, vedi l'avvio sia della Roma che dell'evento solamente a contenere, e poi diventa difficile inserire la spina e fare una partita diversa, anche se la Juventus c'è riuscita, ecco. Quindi tante volte è meglio giocarla prima in casa, che cerchi sempre di fare le partite, che è l'altra faccia di questa evoluzione, no? di cui stavamo parlando, con ogni probabilità. Infatti è un ragionamento che si completa. Guarda, c'è ancora Claudio da Monza che mi chiede di chiederti che cosa pensi di Santon e se un po' ti rivedi in lui. Guarda, guarda, io penso solo bene di questo ragazzo, l'unica cosa è che lui è un po' frenato perché gioca a sinistra, io lo conosco bene, il settore giovanile, lui a destra parte esterno alto, poi si abbassa perché ha questa grande facilità di corsa, a destra non lo puoi mettere perché c'è un fenomeno come Maicon, si deve adattare a giocare a sinistra, certo. Deve migliorare col mancino, in qualche chiusura, ma grande personalità e un grande futuro. Non c'è nessun dubbio, sono certo, concludendo, che non ti è sfuggita sui giornali stamane una notizia che credo ti abbia fatto piacere, e cioè che il tuo vecchio allenatore, uno di quelli del cuore, Gigi Simoni, ha trovato casa calcistica, insomma, è tornato all'attività a Gubbio portandosi tutto il suo staff, a 70 anni farà il direttore tecnico, è stato nostro ospite pochi giorni fa, e dato che ci aveva detto che gli sarebbe piaciuto a qualunque livello tornare a fare qualcosa di campo o di spogliatoio perlomeno, io credo che i tuoi auguri gli farebbero un particolare piacere. Ah, sono felice per lui, io devo tantissimo Gigi Simoni, con lui sono tornato a fare un mondiale a 35 anni e quindi, ed è andato incontro a tanta gente pur di far giocare Beppe Bergamo, e quindi auguro tutto il bene possibile a Gigi Simoni. Un abbraccio e avanti con i Bindum. Ok, grazie Gigi. A presto a Beppe Bergomi, molti messaggi che lo salutano, molti messaggi anche, insomma, comunque che sono echi di queste due serate, in particolare di quella di ieri che era più fresca. Andrea da Torino è ironico e dice: a Chiellini mezzo punto in più in pagella per la più bella giocata della serata, aver dato una testata a Thiago che ne ha accelerato l'uscita, un po' pesantina ma credo che un senso ce l'abbia. Un altro ascoltatore ha già scritto: la moviola in campo c'è già, si chiama Thiago, eccetera eccetera, insomma, avanti così se vi diverte fare anche un po' di ironia. Ci sono in linea i primi ascoltatori, vi segnalo che nella seconda parte del programma poi abbiamo posposto per una volta il ministro degli esteri Fabio Tavelli e dando la precedenza a Beppe Bergomi anche per ragioni organizzative e logistiche, ma poi con Fabio ci sarà il modo di approfondire queste due serate, in particolare per tutto quello che non è italiano, e cioè per quello che è successo di stupefacente, tipo il 5-0 del Bayern fuori casa, e di positivo inglesi e negativo spagnole, perché certamente non è stato un buon turno per le squadre spagnole, celeberrime e meno, come Villarreal e Atletico Madrid. Gianni ha chiamato dalla provincia d'Ancona, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Dica. Vorrei sottolineare tre cose velocissime. Uno, che la Spagna ha fatto peggio di noi. Eccolo qua, infatti è vero. Mm-hmm. Ci consola poco questo. Sì. Poi che a differenza dal passato, io ho 42 anni, ho iniziato a vedere la Coppa dei Campioni negli anni 70. Insomma, queste tre partite un po' simili, i primi tempi tutti in mano alle squadre inglesi. Forse la spiegazione è che loro, come diceva lei, sono squadre molto organizzate, poi hanno molte coppe, la Carling Cup, l'FA Cup, la Coppa di Lega, quindi vanno a giocare anche contro squadre di Serie C e sono abituati alle partite secche. E poi, ritornando su Thiago, vorrei sapere la sua opinione: forse non era meglio fare entrare il primo tempo Marchisio quando loro erano in forma, quelli del Chelsea, e casomai Thiago, che è più lento ma più tecnico, entrare nel secondo tempo? Grazie, buongiorno. Ma no, no, non sono tanto sicuro. Thiago comunque ha un po' più di esperienza internazionale, su questo non c'è dubbio. Ieri sera ha deluso indubbiamente, però è anche vero che Thiago nell'ultimo periodo prima dell'infortunio si era notevolmente ripreso e anzi stava cominciando, cominciando a dimostrare il suo valore, cioè perché la Juventus aveva deciso di investire su di lui. Probabilmente il fatto di quest'altro infortunio, di un lungo periodo fuori e ritrovare il passo all'improvviso, non aiutato dai compagni, perché la prima mezz'ora di ieri sera, i primi 20 minuti, non si può dire che fosse Thiago che mancasse, cioè Nedved era praticamente introvabile, sia pure preso in un settore di campo dove era particolarmente difficile operare, viste le combinazioni di Bosingba e di quell'altro. Molinaro certamente non era l'ideale per dargli appoggio e sostegno reciproco, e quindi insomma era un po' tutta la Juventus che stava soffrendo. Ho sempre avuto la curiosità, scrive Cesare, di sapere se Bergomi conserva la maglietta strappata di Zico del Mondiale dell'82. Non credo, Cesare, se mai sarà in casa di Gentile, che marcava Zico come marcò Maradona, non credo proprio che possa essere in casa di Bergomi. Luciano ha chiamato dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Dica. intanto vorrei dire che lei non ha difesa dei valori sportivi, la metto insieme a Gianni Mura, Bartoletti, lei è una difesa ideale a 4. Poi le volevo dire, secondo me la differenza che c'è tra il calcio inglese e il calcio italiano è che, per dire, Inter e Juve e Roma, soprattutto la Roma quest'anno, ma anche l'Inter e la Juve, stanno cercando di andare a giocare su dei settori rispetto alle squadre inglesi, cioè, mi scusi, sono un po' emozionato. No, sì, è tranquillo, è un respiro, dai. Sì, nel senso di dire, la vogliono mettere sul piano fisico, con squadre come Manchester, Chelsea, e quindi fanno difficoltà, perché in alcuni casi la forza fisica delle squadre inglesi è anche superiore, mentre il Milan può sopperire a questa forza fisica giocando un calcio più tecnico. Più tecnico e più palleggiato. In linea di massima è vero, però è vero anche che su un campo impossibile a San Siro la più bella partita del Milan degli ultimi anni avvenne su un campo impossibile e fu quella che schiantò il Manchester sul piano atletico anche e sul piano fisico, poi con il valore aggiunto della tecnica. E, sa, le partite di Coppa sfuggono sempre un pochino a queste classificazioni di fondo. Certamente non sfuggono a grandi ascolti, se è vero che ieri sera per Chelsea-Juventus c'erano 7.648.000 spettatori, pari circa al 26% di share, che è certamente un grande ascolto. Ma il rigore che ha visto Caressa, domanda Andrea, non ho potuto fare a meno di pensare a lei che se la rideva sul divano. Beh, rideva no, perché poi basta mettersi un attimo i panni di un telecronista. E a me personalmente non viene voglia di ridere, nel senso che sono frazioni di secondo in cui devi dare una valutazione. Certo, se si parla di rigore ieri sera, semmai si poteva guardare nell'altra area, non certamente nell'episodio di Cech su Amauri, anzi di Amauri su Cech, se poi abbiamo visto esattamente, e sempre solo a velocità normale, perché mi rifiuto di considerare quello che è rallentato, se rivedete a velocità normale l'accaduto. Tocca a Francesco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, perché lo seguo molto molto molto. Bene. E se mi permette anche un secondo di salutare Bergomi, in quanto sono lo zio di Spillo. Lo zio di Spillo, però. Lo zio di Spillo Altobelli. Sì, ci siamo visti molte volte quando venivano a Roma. Io sto a Roma, sono della Lazio, sì, tifoso della Lazio, e sportivo anche. Le volevo chiedere a lei, gentilmente, due cose. De Nedve, che ogni partita che fa, le comitate che dà nei visi, dovrebbe essere buttato fuori ogni partita. Invece Nedve seguita a fare ciò che vuole, perché lo faceva anche nella Lazio. Poi? E poi la volevo chiedere anche, nella Lazio, anche quando fa delle belle partite, e viene menzionato poco. La Lazio? Mi sbaglio, cioè, che ne pensa? Beh, penso che non sia attuale il problema, perché grandi partite della Lazio recenti non ne ricordo. Dopodiché, sì, certo, non fa parte del gota, no? Non fa parte delle squadre che godono di maggiore attenzione mediatica. Ne ha goduto ai tempi in cui era ai vertici del calcio italiano, sia pure poi con una gestione su cui è meglio stendere un velo pietoso. Però è vero, questo è un dato oggettivo, ma è un dato che riguarda tutti comunque. È quando sei al vertice che i riflettori si accendono. E per il resto le attenzioni sono relative oppure sono locali, dato che la Lazio è una squadra locale di Roma, insomma, non si può certo lamentare delle attenzioni locali, ripeto, o regionali o di un, comunque di territorio, rispetto ad altre realtà più piccole. Nedved è un, non mi riferirei a ieri sera, direi proprio di no, ma è in generale sì un giocatore su cui, senza arrivare ai suoi estremi, un giocatore che simpatia agonistica non me ne ha mai suscitata molto, effettivamente, dai tempi della Lazio e dai tempi della Repubblica Ceca. Da Padova, Davide, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, buongiorno a lei. Faccio una piccola premessa. Avrei pensato di tutto, sinceramente, tranne che mai vederla ospite a Milan Channel in questi giorni a parlare di Rocco. E del Parò è successo ieri perché insomma questo libro di cui lei mi costringe a parlare. Certo, insomma, infatti non volevo nominarlo, no. Il libro, però sono rimasto molto sorpreso. E lo so, ma dato che se non fosse per un libro su Rocco, la mia presenza a Milan Channel effettivamente sarebbe un po' imbarazzante e imbarazzata, le spiegavo perché accade. Mi hanno invitato a ricordare, al di là poi di altre cose editoriali, mi hanno invitato a ricordare e a ricostruire la figura di Rocco, che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Beh, per me parlare di Rocco e ricordare la sua lezione, il suo magistero, è sempre comunque un onore, che sia in una libreria, che sia in una sala parrocchiale, che sia davanti a una telecamera, che sia alla radio, che sia a Trieste, come è accaduto la settimana scorsa nella sala del Consiglio Comunale per una commemorazione ufficiale. Sempre per me il Parò è una leggenda da perpetuare e da trasmettere ai giovani, e quindi lei capisce il perché questa sua battuta, che non era male iniziale, perché mi ricordava che era di Scopigno. Tutto avrei pensato nella vita, meno che da vedere Nicolai via satellite, quando vide Nicolai, specializzato nel suo Cagliari in autoreti, giocare i mondiali del 70. Avanti. Niente, velocissimo adesso. Sì. Niente, riguardo le partite degli italiani in Coppa, sì. Fermo restando che ci sono, secondo me, grosse possibilità che comunque gli italiani possano passare tutti e tre. Io faccio un riferimento... Questo l'ha detto lei, eh? Sì, secondo me sì, con un po' di fortuna possono farcela tutte e tre, secondo me, con un pizzico di fortuna. E invece posizione futura, faccio fede alle parole di Galliani qualche tempo fa, che secondo lui continuando in questo passo le italiane avranno sempre più difficoltà a competere con i club europei. Io penso che esauriti un po', diciamo, i cicli, diciamo il nucleo storico, diciamo delle quattro squadre più forti in Italia, quindi le due milanesi, la Roma e la Juve, faccio riferimento ai giocatori, diciamo quelli importanti, da una parte piuttosto Totti, piuttosto che Maldini, Nedved, Buffon, eccetera, eccetera. Secondo me ha ragione, nel senso che io prevedo che gli italiani avranno grosse difficoltà a battere i club che stanno puntando già da anni a giocatori giovani. Ma io non sono Davide, invece io mi scusi se accorciamo un tantino, ma perché ci sono molti ascoltatori in attesa. Certo. Io invece non la penso così, perché credo che siamo davanti a un punto interrogativo. Insomma, siamo davanti a un punto interrogativo di quelli grandi davvero, per vedere cosa accadrà nel mondo, no? Nei prossimi mesi, speriamo non anni, no? Con questa crisi che molto rischia di travolgere, certamente non tutto, e speriamo il meno possibile, ma insomma non sarà così poco. Questo riguarderà fatalmente anche il mondo del calcio, e questo è un discorso generale. Più in particolare mi sembra che l'UEFA abbia da tempo messo nel mirino certi club che vivono scandalosamente al di sopra delle proprie risorse. Stiamo parlando per esempio dei club inglesi, che sono indebitati in maniera persino imbarazzante. E quindi io non sono poi così certo che si vada verso qualcosa di simile. Galliani ogni tanto piange perché la pressione fiscale sui club italiani di calcio è più alta che altrove. E questo potrebbe essere un problema prima o poi da affrontare. Poi, che meglio che prima, no? Perché adesso mi pare che di pressioni fiscali ce ne siano sulla gente, e siano queste semmai che possono, no, che devono attrarre il nostro interesse in momenti come questi. Se poi i club italiani pagano qualcosina in più di tasse che non all'estero, pazienza, direi. Tancredi da Roma, buongiorno. Buongiorno, intanto la ringrazio di aver dato lustro a un mio concittadino, anche se io vivo a Roma, ma mi chiamo Codermaz di cognome, quindi sono triestino di origine. E il suo libro sulla mia scrivania adesso aspetta il momento di essere aperto tra gli impegni di lavoro, ma prima possibile lo farò. Poi dopo volevo dire una cosa, volevo approfittare della sua trasmissione per dire una cosa che è un mio crucio, e ogni volta che guardo la Juventus, io sono tifoso juventino, sì, mi arrabbio. E cioè, la palese, io lo capisco che molti giornalisti voi non potete dirlo, ma lo dico io che sono un tifoso juventino prima di tutto, la palese inadeguatezza e deficienza dal punto di vista del verbo latino deficere di Molinaro e di Grighera, sono due terzini, palesemente terzini, ma non da Juve, forse probabilmente da Serie B, sono due terzini che non sanno marcare, marcano troppo bassi, danno la possibilità sempre agli attaccanti, e se sono anche veloci come ieri sera, Dio ce ne scappi, di attaccare, danno troppo spazio. Molinaro ieri era palesemente deficiente da questo punto di vista, cioè veniva attaccato, lasciava troppo spazio. Difatti il Chelsea, ma come altre squadre che vedono e sanno come gioca Molinaro, attaccava prevalentemente sulla nostra fascia sinistra. Perché? Perché c'è il giocatore più scarso che la Juve ha. Allora, quello che io ex-equo con quello che fa il paio alla destra, a destra in sì, questo momento. Con Grighera, ma guardi, io vedo tutte le partite della Juve. Lo dico proprio sinceramente, Grighera e Molinaro fanno di tutto molte volte per far perdere la Juventus. No, adesso io fin qui l'ho seguita, questo paradosso magari è eccessivo, perché poi sono due brevi. So, ho visto Molinari in una breve intervista dopo la partita, non so come mai il televisore è rimasto acceso, a parte gli occhiali, no, da vista, che mi hanno un pochino colpito, ma un ragazzo d'oro, un ragazzo di una semplicità e di una onestà notevoli, no, nel mondo di oggi e nel calcio di oggi. Però sinceramente, guardi, lei ne fa un problema di rendimento, io nel caso di Molinari ne faccio proprio un problema estetico. Sono abituato da un certo livello di squadra in su, e qui siamo al top, comunque nelle zone di vertice. Secondo me anche l'occhio vuole la sua parte, insomma, e il modo di muoversi di Molinaro, sinceramente l'occhio non lo appaga, nemmeno quello dall'altra parte. Alla fine sono abbastanza d'accordo, anzi quasi completamente d'accordo con lei. Prima di collegarci con Fabio Tavelli, c'è questo ascoltatore paziente che ci ha atteso sino ad ora. Gaetano da Milano, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Permetto che sono un tifoso simpatizzante, diciamo, juventino. Volevo esprimere tre considerazioni e sentire un po' il suo parere in merito alla partita di ieri sera. La prima è che non mi è piaciuto troppo il metro di giudizio arbitrale, perché avrei voluto vedere più severità in campo, almeno un paio di cartellini rossi e comunque anche qualche giallo in più. La seconda è che il numero imbarazzante di passaggi sbagliati, cross sbagliati da parte della squadra della Juventus, insomma, ha messo in luce, insomma, un'organizzazione di gioco che non è proprio l'ideale. Speriamo che nel ritorno non si riverifichino questi errori dir poco imbarazzanti, non solo di Thiago ma anche di altri giocatori della Juve. Terzo, e concludo, le possibilità della Juve di passare turno, secondo me, sono legate al fatto di mantenere la porta inviolata di Buffon, che onestamente la vedo un po' difficile, in quanto ho visto la Juve un po' in difficoltà nel gestire gli attacchi veloci, i fraseggi del CS organizzati, e quindi se dovesse subire gol vedo che il passaggio della Juve sarebbe molto complicato. Certo, se segnano, credo io almeno, se segna l'Arsenal a Roma e soprattutto il Chelsea a Torino, a quel punto sarebbe probabile la frittata. Chiediamo subito a Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Buongiorno, chiediamo subito a questo proposito se il Chelsea, l'Arsenal, poi andiamo su altri argomenti, se il Chelsea in particolare, ma poi anche l'Arsenal del Manchester, sappiamo, sono squadre che in questo momento si esprimono meglio dentro o fuori casa. Ma guarda, il Chelsea a guida Scolari ha vinto più di 11 partite consecutive in trasferta e quindi credo che con Hiddink possa fare meglio, no, non perché magari ne vinca 12 o 15, ma perché comunque è una squadra che sembra migliore, e quindi mi fiderei poco, anche se il Chelsea, visto l'Olimpico contro la Roma nel girone preliminare, fu un Chelsea non brillantissimo e che rimise in gioco di fatto la Roma. Per quanto riguarda l'Arsenal, credo che l'Arsenal giochi meglio fuori che in casa, perché l'Arsenal è una squadra che gioca molto meglio quando gli spazi si aprono, e mentre invece va un po' in confusione o quantomeno difetta di lucidità quando gli spazi sono chiusi, e quindi sarei molto preoccupato. Chiedere informazioni al Milan, che l'anno scorso tornò dall'Emirates con lo 0-0, quindi con un risultato migliore rispetto alla Roma, ma poi venne letteralmente inchiodato al ritorno. Il Manchester United è forse la squadra più lineare, nel senso che ha una condotta abbastanza uniforme sia in casa che fuori, è certamente la squadra più forte delle tre, e io continuo a pensare che ci sia una percentuale di fumo negli occhi eccessiva che ci viene venduta rispetto alla partita dell'Inter di martedì. Ora, io credo che l'Inter possa ancora passare il turno, e ovviamente lo auguro ai tifosi dell'Inter, spacciare il risultato di martedì per una grande conquista, per qualcosa di cui vantarsi, francamente ci andrei piano, perché è vero che l'Inter ha due risultati positivi, cioè ha due risultati su tre da conquistare per conquistare il passaggio del turno, però lo deve fare fuori e lo deve fare a Old Trafford, che non è il campo più facile dove andarsi a imporre, lo deve fare contro la squadra campione d'Europa, lo deve fare contro una squadra che per un tempo ha, non voglio dire insegnato il calcio, però ha messo alle corde la di gran lunga migliore squadra italiana, l'ha ridotta a pochino. Quindi ho ascoltato con grande attenzione quello che avete detto prima tu e Bergomi e condivido tutto. Però continuo a pensare che vincere in casa sia meglio che non vincere. È vero che è importante non prendere gol, però cioè, ci sono certe cose che non si possono nascondere. Cioè, se tu non vinci in casa, poi fuori devi fare qualcosa di più. Non c'è dubbio. Però il fattore C di Mourinho potrebbe... Guarda, molti parlandone in redazione, molti mi hanno ricordato il fattore Mourinho e il fattore Porto. Il Porto andò di fatto nelle stesse condizioni a Old Trafford, si difese con le unghie e con i denti e poi trovò questo gol di Costi. E da lì in poi iniziò l'epopea di Mourinho. Il fattore C può anche finire, per quanto ne so io. Secondariamente col fattore C si fa poco, e quindi vuol dire che Mourinho è anche bravo e non è soltanto fortunato. Credo che l'imbarazzo che è collettivo delle squadre italiane, soprattutto nei primi tempi, ma comunque in generale a livello di soggezione, a livello di personalità, sia un qualcosa che faccia e debba fare molto molto riflettere. A meno di non voler pensare che gli allenatori, in questo caso soprattutto Ranieri e Mourinho, abbiano voluto forzatamente ingabbiare, tolgo Spalletti da questa cosa perché penso che la Roma avesse problemi diversi contro l'Arsenal, abbiano voluto talmente tanto ingabbiare i loro da impedirgli di esprimersi, cioè che Mourinho abbia voluto caratterizzare talmente tanto la sua squadra quasi da costringerla a fare il pugile che ne prende tante per far stancare gli avversari e poi tentare di colpire di rimessa tra 15 giorni. È un po' paradossale. È una tesi un po' ardita, mi pare eccessiva. No, la lascerei perdere. E piuttosto mi incuriosisce molto il perché, cioè non il perché, il bilancio spagnolo, perché quello inglese è stato, anzi finiamo l'Inghilterra e andiamo sulla squadra di cui ancora non abbiamo parlato, se non prima di passata Beppe Bergomi, e cioè il Liverpool che va a vincere sul campo di un Real annunciato in ripresa. Ma il Real non è solo annunciato in Real, era in grossa ripresa, ha vinto 9 partite su 10 nella Liga, dando anche lezioni in giro per la Spagna. La cosa vera è che il Real Madrid comunque quando va a confrontarsi con una squadra che ha una delle squadre con maggiore vocazione europea e poi fa più fatica. Il Liverpool è veramente strutturalmente costruito per giocare le partite secche o per giocare comunque le partite di 180 minuti. È una squadra che evidentemente la flessione che ha avuto in Premier League l'ha avuta anche per riprogrammarsi e ricostruire le proprie capacità e la propria attenzione proprio in questo periodo. Credo anche che mentre all'inizio del campionato ad Anfield e dintorni puntassero moltissimo sulla vittoria del titolo, perché la vittoria del titolo manca da troppo tempo a Liverpool, abbiano adesso capito che è molto difficile che il Manchester United molli e quindi siano un po' tornati a quello che è il loro antico DNA, cioè quello di esprimersi meglio nelle coppe. Resta questo, secondo me, il più grande risultato degli ultimi due giorni, no? Tra martedì e mercoledì. Sì. Perché vincere a Madrid non è più impossibile come una volta, però insomma farlo come l'ha fatto il Liverpool ieri è importante. Certo, così come è molto significativo in proiezione e potrebbe in un certo senso preludere alla stessa scelta, cioè prima la Coppa e poi il campionato, per quello che ha combinato il Bayern a Lisbona. Ma guarda, il Bayern in campionato veniva da 3 sconfitte in 4 partite, ha ricominciato male, però il Bayern è una squadra che diciamo può vincere la Bundesliga anche con la quarta marcia, senza aver bisogno della quinta. Per quanto riguarda la Champions, evidentemente no. Credo anche che avesse un avversario abbastanza comodo. Però certo, vincere 5-0 fuori significa voler finire e chiudere i conti subito senza voler aspettare altro. È stata una grande dimostrazione, seppur ripeto, in una squadra in un momento non particolarmente brillante, soprattutto dal punto di vista fisico, e credo che dover fare i conti con il Bayern di Monaco ai quarti di finale possa diventare un problema, però penso anche che il Bayern di Monaco non scelga mai, nel senso che la Bundesliga per loro è come per anni è stato il campionato per la Juventus, cioè è qualcosa che comunque va vinto. Sì. Poi certo la Coppa c'è, però intanto mettiamoci in casa il campionato che non si sa mai. Certo. E quindi penso che non rinunceranno. E fermo restando che siamo a metà del guado, perché si è giocata l'andata e mancano 90 minuti più eventuali supplementari, così come la linea di tendenza sembrerebbe confermare una leadership inglese, la stessa linea di tendenza sembrerebbe confermare, ripeto, salvo verifiche, un discreto flop spagnolo. Abbiamo detto Real che perde in casa, il Barcellona ha fatto un buon risultato a Lione, ma meritandolo sino a un certo punto, sì. E mi pare che i due pareggi interni di Villarreal e Atletico Madrid invece siano davvero deludenti in assoluto. Sì, soprattutto quello dell'Atletico, però l'Atletico non stupisce, perché anche in campionato l'Atletico non sta andando bene, è settimo in classifica, ha cambiato allenatore, ha un sacco di problemi, adesso pare che anche Agüero se ne sia andato dal ritiro e che quindi gli stia creando qualche problema ambientale la nuova guida di Resino. Penso anche che siano tutte e due pareggi rimediabili, sia quello dell'Atletico Madrid che soprattutto quello del Villarreal. È molto probabile che un paio di spagnole le perderemo. Credo anche che il Real Madrid invece, paradossalmente, pur avendo perso, sia una squadra che ad Anfield possa ancora andarsela a giocare. Certo, ci vorrà il miglior Real Madrid possibile, però quando Ramos conosce abbastanza il calcio inglese e qualcosina, secondo me, il Liverpool farà bene ancora a temerlo. Credo che uno dei dati più interessanti di questa gara di andata sia che insomma il fattore campo abbia tenuto pochissimo, nel senso che abbiamo solo due vittorie e sono due vittorie, come si diceva una volta, di misura, cioè quella del Chelsea e quella della Roma. Per il resto abbiamo due vittorie esterne, una ormai irrimontabile, quella del Bayern di Monaco, e una comunque importante, quella del Liverpool, e poi abbiamo dei pareggi, alcuni con gol, tre pareggi con gol e uno senza gol. Questo depone non troppo a favore di chi conta molto sul ritorno in casa per poter vincere, insomma, per poter passare, perché vorrebbe dire proprio un ribaltamento abbastanza forte della linea di tendenza. 30 secondi, Fabio. Non si è visto un grande calcio in questo ritorno in campo delle coppe, non si è visto per me nemmeno un grande livello di arbitraggio complessivo. No, quello no. Guarda, sul non si è visto un grande calcio mi stupisce non tantissimo, nel senso che purtroppo abbiamo contribuito anche noi come squadre italiane oggettivamente a renderlo tale, sì, quindi non facciamolo troppo notare, perché c'è una corresponsabilità. Se no ci dicono c'era troppo italiano. Sì, per quanto riguarda gli arbitri, io penso che sia un periodo proprio brutto in generale, sia a livello europeo sia a livello italiano, e che il livello sia questo. Cioè, mentre il calcio internazionale ha dei picchi altissimi e dei momenti di grandissimo divertimento, purtroppo la qualità complessiva della classe arbitrale in questo momento, posto anche il fatto che la concorrenza del moviolista, della televisione, della voglia di spezzettare le immagini in 200 frame fa sì che davvero siano abbastanza indifesi quando si confrontano gli occhi umani con gli occhi delle telecamere. Di sicuro il rigore dato ieri sera contro i greci e Panathinaikos è un rigore inammissibile, onestamente, perché è esattamente il contrario di quello che è successo, e un arbitro di quella levatura un errore così non dovrebbe poterlo fare. Grazie Fabio. Concordo. Ciao a tutti. Chiudiamo il collegamento anche con Fabio Tavelli. Beh, scandagliando tra tutto questo mare di sms che arrivano, è spiritoso quello firmato Massimo Caponi, che dice: infatti Torricelli l'era un terzino strafico e non ha vinto nulla, ricordando il fatto che, se parliamo di estetica, quella di Molinaro potrà non essere come dire un valore assoluto, ma certamente se il rendimento c'è, e non è il caso di ieri sera, poi si può anche chiudere un occhio sull'estetica, e in effetti, ricordando Torricelli, insomma, l'estetica è un'altra cosa. E poi ci sono molte mail arrivate, ne ho scelta una. Ieri senza Bergomi, Caressa tra le altre ha urlato rigore netto quando il portiere ha avuto il solo torto di rialzarsi da terra. Beppe, non lo abbandonare, rivolto a Bergomi, con te a fianco diventa ogni tanto anche un buon telecronista, scrive Stefano Tanini. Roberto ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Guardando le partite appunto delle tre italiane, no, contro le squadre inglesi, ho notato che praticamente noi avevamo sempre avuto un'idea del calcio inglese come un calcio fatto di corsa, di fisico e nulla più, mentre le squadre italiane sono sempre state considerate comunque delle squadre fatte di giocatori molto tecnici. Io ho notato però una cosa, che ho visto i giocatori inglesi, che delle squadre inglesi, che facevano viaggiare la palla a una velocità doppia rispetto a quelle delle nostre squadre, e i loro giocatori erano stati ad aggredire gli spazi, c'erano sempre giocatori smarcati perché si correva senza palla, e quindi anche il portatore di palla loro era in grado di fare passaggi diciamo in maniera molto più tranquilla, perché avevano sempre vicino un compagno che era smarcato. E da qui io credo che chi gioca a pallone, insomma, comunque chi un pochino così lo mastica, sa che controllare una palla che va a 5 all'ora sono capaci, diciamo, tutti. Far viaggiare e controllare palle che vanno a 100 all'ora ci vuole anche una discreta tecnica. Una tecnica superiore, quindi, non c'è dubbio, Roberto. Ho notato, secondo me, che è tecnicamente il calcio, diciamo, inglese, ma comunque forse anche quello spagnolo, quello straniero, si è evoluto tecnicamente, mentre noi... Sì, Roberto, le chiedo scusa, stringo perché ci sono molti altri in lista d'attesa ancora. Si è evoluto molto semplicemente perché di inglesi non ce n'è più. non vorrei esagerare, ma di inglesi ce n'è pochi perlomeno, ma molto, molto pochi. Di tutti quelli che abbiamo visto in azione tra Manchester, Chelsea e Arsenal, se facciamo il totale agli inglesi che c'era, non arriviamo a una squadra, anzi stiamo notevolmente al di sotto, forse nemmeno aggiungendoci quelli del Liverpool. Sarebbe curioso fare un giochino, magari la prossima volta lo facciamo, e quindi questo spiega un bel po' di cose, perché è vero che le caratteristiche degli inglesi sono sempre state quelle, è vero che a forza di stranieri di valore, di grande valore in qualche caso, la componente tecnica cambia, no? Cambia in positivo in questa casa, in questo caso. Ho già saltato l'ora canonica, l'ora classica, adesso lo recuperiamo con un minuto o due di ritardo sulla tradizione, sulle buone abitudini. Il Sembra Ieri, Nicola Filippone. Sembra Ieri. 26 febbraio 1989, arbitrando Cesena-Juventus, gara che termina 2-1 per gli ospiti, Gigi Agnolin festeggia la 200ª partita in Serie A. Il debutto risale al 18 marzo 1973, in occasione di un successo per 3-0 della Fiorentina sul Cagliari. L'arbitro di Bassano del Grappa chiuderà la carriera nel 1990, a 47 anni. La sua ultima partita di Serie A, Udinese-Inter 4-3 del 29 aprile, sarà la 226esima. Nella storia del campionato a girone unico, solo 5 arbitri vantano più presenze di Agnolin nella massima serie. Sono Concetto Lobello, primatista con 328 partite, Cesare Ionni, Generoso Dattilo, Pierluigi Collina e Raffaele Scorzoni. Bella questa bella la data, ma bella anche questa, interessante questa statistica. Era il modo giusto di festeggiare i 2 anni, credo che sia il secondo compleanno, sta iniziando la terza stagione di Sembra Ieri, e cioè comincia a diventare più difficile, perché ci sono, dato che non ci si può ripetere, ci sono degli anniversari, ogni giorno si tratta di andare a trovare un'altra impresa, un'altra data, un'altra ricorrenza che già non sia andata in onda nelle 2 stagioni precedenti. Le 14:52, prima degli ultimi ascoltatori, la stampa di oggi ha dato grande risalto, la stampa di Torino, ai fischi e agli insulti, più insulti che fischi, riservati dal generoso pubblico interista a Michel Platini l'altra sera, al presidente dell'UEFA, presente in tribuna a San Siro. Che è un buon modo, dato che era la tribuna VIP, ci sono i dettagli e i particolari, è un buon modo, credo, di qualificarsi e anche magari di farsi amare in Europa. Enzo da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Voleva compartire un'opinione. Io sono argentino, sì, e credo che questa crisi farà bene, mi auguro che faccia bene veramente, al calcio europeo, perché non avendo più soldi per andare in questa febbre di shopping, il sviluppo dei piccoli, dei ragazzini all'interno dei club sarà un bisogno, non una scelta. E questo è che ci capita a noi nei paesi sudamericani, che ci dicono spesso come mai sono tanti che escono di là, è perché non abbiamo i soldi per andare a acquistare uno già fatto e lo facciamo da piccoli. Per quello io credo che in questa crisi un aspetto positivo potrebbe essere che, non vivendo più al di là delle sue possibilità, i club si rendono conto che devono sviluppare una cosa molto buona come le scuole per i ragazzini, che anche ha un valore aggiunto, e cioè l'identificazione della persona, del giocatore, con la maglia. È questo. Potrebbe essere, in effetti, non illudiamoci mai sulla capacità dei nostri dirigenti, del nostro movimento di far tesoro di lezioni antiche oppure di prendere atto di realtà difficili, ma è ovvio che se questa realtà diventasse troppo difficile da reggere, poi qualcosa anche per loro dovrebbe scattare. Massimiliano ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno. Mi illudo di trovare la chiave di volta a tutti i discorsi che sono stati appena fatti. Le dico come la penso, Gigi. Bisogna correre e correre tanto. Poi, se controlli una palla ai 200 all'ora o se hai tecnica applicata alla velocità, allora sei Gerrard e sei Lampard e sei De Rossi e sei Seedorf. Io sono malato di Juve. Però questa è la realtà. Se invece corri molto, sei Sissoko. Se corri poco, hai una buona tecnica, sei Thiago. Legandomi, scusi se la interrompo. Non è male questa, non è male. Sì, legandomi a parte che lei è in pieno dentro lo slogan, no, di Radio 24, perché la passione si sente subito soltanto dal tono. Vada avanti, che questo è un bel intervento. Senta come glisso. Legato al discorso di Molinaro, Gigi, questo non è bello, però almeno balla. Se sei bello e non balli, almeno questo balla. Sì, il problema è che ogni tanto balla sulla mattonella mentre quegli altri lo aggirano. Ogni tanto fa delle ingegni, mi scusi, andiamo avanti nel dialogo. Senta, voglio solo dire, mi chiamo Pan Bianco di cognome, quindi ha capito perché do uno sfondo agonistico, atletico al tutto, solo qua, mi sono un po' tradito, tutto qua, ecco. Pan Bianco, certo, Pan Bianco significa una parentela, allora un romagnolo che si chiama Pan Bianco e lo sottolinea e lo richiama, non può che essere un parente di un grande corridore italiano che nel 61, se la memoria non mi tradisce, vinse, ma non a sorpresa, di più, un Giro d'Italia e con pieno merito, visto che quello era il Giro d'Italia di Anquetil, scritto prima ancora della partenza, e invece questo ragazzo di allora, di Bertinoro, vinse quel Giro d'Italia, che tra l'altro era il Giro d'Italia del centenario, perché era del centenario, i cent'anni di Giro sono quest'anno, quello era il centenario, un giro particolarmente prestigioso, era il centenario dell'Unità d'Italia. Massimiliano, grazie per il suo intervento, dotto tra l'altro, oltre che spiritoso. Vincenzo ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. Volevo chiederle un suo parere. Io ho visto che purtroppo l'Inter ha più che problemi di gioco, problemi di amalgama tra i vari componenti della squadra. Cambiare 5 undicesimi di giocatori ogni anno non facilita il fatto di raggiungere i nostri traguardi come la Champions o altre cose del genere. Volevo sapere un suo parere. La ringrazio, la saluto, buongiorno. Insomma, adesso non mi sembra che nelle ultime stagioni l'Inter abbia poi cambiato così tanto. A differenza dei primi anni della gestione Moratti, mi sembra che i cambi siano diminuiti di numero e che siano migliorati dal punto di vista della qualità nel telaio base. Poi certo c'è una vocazione insopprimibile, no? Per cui... Quando finalmente, magari, che ne so, abbandona le coba, ci vuole un quaresma, ma insomma questi sono piccoli vizi, o magari non piccoli da un punto di vista economico, ma sono problemi loro, insopprimibili. Però il telaio dell'Inter, quello che conta in queste ultime stagioni, mi sembra più o meno lo stesso, si inserisce un giocatore o due e non vedo perché dovrebbe essere diversamente con una squadra così collaudata in Italia. Poi in Europa il discorso al momento è diverso, ma non è detta l'ultima parola, nemmeno in vista di Manchester. Grazie per oggi, grazie per l'intera settimana, visto che da domani il testimone, come ogni venerdì, passa a Carlo Gente. In regia c'era Filippo Aureggi, in redazione Flavio Soardi. Buon pomeriggio a tutti.